Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Dato che lui aveva fatto un discorso contro di noi, io gli risposi sui punti, ma poi gli dissi benevolmente, pensando di dargli un lavoro, un'occasione di lavoro, gli dico: c'è un mio amico regista che intende fare un film sui campi di concentramento tedeschi. Qua già apriti cielo, perché i tedeschi, secondo loro, i campi di concentramento non ci sono stati, no? E quindi le fosse di Putin, di Kosovo, sì, ma i campi di Katyn, sì, ma i campi di concentramento in Germania, no. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora. Popolo della radio, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Possiamo scegliere qualsiasi cosa, diciamo la verità. Che campagne elettorali sarebbero se non ci fosse quest'uomo qui? I campi di concentramento, la grazia che doveva essere concessa per forza da Napolitano, chi più ne ha più ne metta, la Zanicchi Putin. Putin, che c'entra Putin? La difesa di quel suo amico Putin, come al solito. Ma dov'è la difesa di Putin? No, anche a Putin. Non si sente una mazza, cancellato, via, mandatelo via, via, non si sente. Via, chiudete, via, non lo voglio. Oh, le agevolazioni, le pensioni a 800 euro, cioè 800 euro per tutti i pensionati, meraviglioso. Però c'è l'altro provvedimento che ho in mente e abbiamo trovato le coperture, quella pensione ce la dimenticheremo, perché io penso che come minimo tutti i pensionati devono partire da 800 euro in su. Questo sogno, presidente, siamo. Ah, poi diciamo la verità, a noi che ce ne frega di questa storia della par condicio? C'è intervista di un'ora dalla D'Urso, molti dicono un'intervista sdraiata, ma amici miei, ma è Barbara D'Urso, ma che deve fare l'ispettore Derrick? Che deve fare? Barbara D'Urso, Canale 5, Mediaset, che intervista volevate che fosse? L'intervista, l'interrogatorio? Ma è evidente, Berlusconi dice quello che vuole, no? Non viene contestato su nulla, ma è evidente, tutti che si stupiscono. Ma di cosa? Presidente, siamo con te. Meno male. Cioè, è la stessa storia da 20 anni. Cioè, usa le sue televisioni come gli pare. Ma è evidente, è chiaro. In questo sogno, presidente, siamo con te. Oh, Francesca mi legge nel pensiero e sono pensieri puri. Devo mantenere pensieri puri. Francesca Pascale. Sempre dalla D'Urso, eh? Meno male che Silvio c'è. Voi napoletani siete speciali, perché avete, per esempio, riesce a leggere nella mente quello che sto pensando. E allora mi dice: questo è pericolosissimo, presidente, sì, però. È pericoloso, è assolutamente pericoloso. E infatti io mi devo sempre attenere ai pensieri puri. Anche questo è un portato di Francesca. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Ma riprendiamo la cosa di Schulz, va, perché in fondo Berlusconi cosa dice? Si scusa con quelli che possono avere frainteso, che possono essere stati toccati dalle sue parole, eccetera, ma in realtà lui ha fatto pubblicità involontaria a Schulz. Meno male che Silvio c'è. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. In questo sogno, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Oh, poi c'è la questione dei cani, eh. La questione dei cani, il partito dei cani. Il veterinario gratis per gli anziani. Queste nostre comunità, questi nostri club, devono cercare, se c'è un anziano che ha il cagnolino e che non ha i mezzi per garantirgli le cure mediche, di mettere a disposizione di questi anziani un veterinario con una cadenza periodica, ogni settimana o ogni 15 giorni. Come? Gratuitamente. Gratuitamente, ah, sì. a spese del club, no? Tutto gratis, gratis i veterinari, gratis le cure per i cani, 800 euro di pensione, è una meraviglia. D'altra parte è la campagna elettorale di Berlusconi, ha sempre fatto così, eh. Presidente, siamo con te. Oh, Grillo dice che stravince. Avete visto quell'intervista in cui lui va abbracciato la giornalista di Rai 3? Abbracciato, eh? Stupendo. Grillo è spiaggia e dice che stravince e poi Napolitano si deve dimettere. Vola il governo subito dopo. Grillo. Mi aspetto una marcia trionfale. Prima pensavo di vincere, adesso stravinceremo. Quindi anche più del PD? Assolutamente. Quanto più del PD? La non lo so, ma assolutamente. Basta un deputato, un candidato più del PD che venga eletto al Parlamento europeo, abbiamo vinto. In questo sogno, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Oh, sempre dell'intervista ad Agorà. Renzi è un bamboccio. Ma Grillo dice sempre le solite cose. È già scritta questa campagna elettorale, è già scritta. Ma non c'è la politica di Renzi, c'è questo bamboccio che saltella da un telegiornale all'altro a dire cazzate, non c'è niente di scritto, non ci sono coperture. Che cosa significa che tu dai dei soldi alle imprese se assumono le donne e poi togli l'assegno del coniuge a carico? Ma cosa significa? Quindi secondo lei Renzi e Berlusconi rimarranno alleati? Ma se no muoiono, muoiono insieme. Muoiono e moriranno insieme, alleati, non alleati. Hanno finito, è finito questa cosa, è finita. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto. Vittorio? Eccolo. Dove sei? Mi devi spiegare, sono a Caserta, ho visto la Reggia meravigliosa, conservata. Beh, che è mica la prima volta che vedi la Reggia di Caserta. No, però tutti dicono, ma cresce la Reggia, è conservata benissimo ed è un patrimonio. Senti, d'Italia. Ma hai saputo che c'è Cosentino aveva le chiavi per entrare dentro la Reggia di Caserta? Chiavi, per... Cosentino, ma le chiavi di Cosentino sono una stronzata, sono una cosa vera. Dice il direttore che è una stronzata. Cioè, come? No, spiegami sta cosa che non ho detto. No, scusa. Nel senso che probabilmente avrà avuto un piccolo margine di giardino, perché è infinita la Reggia, ma a parte dei custodi è chiusa. Cioè, il direttore della Reggia di Caserta dice che non è vera questa storia che Cosentino aveva le chiavi della Reggia per sì. Fare running. Per accedere a fare. Ma in quale parte accedeva? Accedeva al parco con un cancello laterale. No, si dice che c'era un cancello laterale, poi sono. Ho hanno cambiato le chiavi. Vabbè, hanno cambiato le chiavi, dunque aveva le chiavi per accedere da un cancello laterale sì, dentro no, la Reggia. No, questo si è letto, ma cerchiamo di informarmi di quale fosse il margine del parco che poteva. E perché lui dice allora perché il direttore dice che è una stupidaggine, scusami, Vittorio? Perché dice che non riguarda il Ministero dei Beni Culturali di cui lui è dipendente, ma riguarda la prefettura. Che e infatti era il prefetto, diretti. Era il prefetto che gli aveva dato. Sì, era un'autorità diversa. Comunque, detto questo, volevo dire il tema che mi pare più pressante per me sì. È quello del Samsung. Cioè, tu mi devi spiegare che uno la mattina esce di casa con un telefono che dovrebbe essere formidabile, meraviglioso, eccetera, e dopo due ore è spento. Cioè, sì. Il telefono sempre scatto. Facciamo un appello alla Samsung che faccia delle pile che durino. Ma mandali direttamente a fare. Io li manderei direttamente a fare il culo. No, mandiamo le pile. Però non sarebbe uno che sia acceso, no? Perché tu mi stai chiamando su non so quale telefono, un BlackBerry. Sì. Ma il mio telefono parte la mattina già scarico. Allora, cari signori della Samsung, il signor Vittorio Sgarbi che vive di telefono ha acquistato non mi era mai capitato con la Nokia mai la seguo ha acquistato da poco un vostro cellulare sì. Un vostro dei più moderni Mega Galaxy, sai ma... questi Mega queste puttanate sì ma l'ho visto anch'io l'ho visto De Visu è sempre scarico, cioè nasce scarico. Ma vi rendete conto o no? Fate dei grandi mezzi e poi è tutto scarico sempre. Ma uno che se li compra a fare se è scarico dopo due ore? Amici miei, su. Sì, dai. Volevo dire questo. Poi punto secondo, questa cosa che mi stavi dicendo, quella che questa l'abbiamo detta. Sì. C'è un altro punto. No, il punto è che oggi, vabbè, Berlusconi sta parlando di qualsiasi cosa, sta parlando per esempio del dovere morale di Napolitano di concedergli la grazia motu proprio, dice Berlusconi. Ma sai, c'è un punto, ho detto un punto, se la grazia non gli verrà concessa, però sì. È vero che c'è una grande contraddizione, cioè che nessun evasore fiscale che non fosse totale è stato arrestato, nel senso che evasore è De Benedetti, evasore Dolce Gabbana, evasore Valentino Rossi, evasore Pavarotti, allora tu sei contemporaneamente, questa è l'unica cosa sana che dice, il primo contribuente italiano, cioè paghi 500 milioni di euro, pagarne 505 non ti costa nulla. Beh, ma una cosa una cosa è un contenzioso fiscale, una cosa è un processo per i diritti Mediaset, eccetera. Resta che lui è il primo contribuente italiano, quindi c'è una contraddizione formale tra uno che dà un sacco di soldi allo Stato perché li butti via per fare il palazzo della regione Piemonte, il palazzo della regione Lombardia, tutti i soldi buttati, sono contro le tasse per come spendono i soldi questi maiali che distruggono l'Italia facendo solo puttanate, quindi tu comunque quei soldi li dai, in qualche modo corrisponde al fatto che tu sei il contribuente, quindi quando lui si sente lì spaesato è perché dice come io sono un evasore, colpevole, non colpevole, però sono uno che ha dato più di tutti. Vabbè, però sai, anche se hai pagato le tasse 100 e poi ne hai evase 10, comunque... Sì, ma devi dire un altro, che secondo te, quando io ero in Parlamento, io denunciavo 1,8 miliardi, del secondo contribuente, sai cosa denunciava Benetton? 600 milioni, io faccio il casino, ti pare possibile che Benetton denunci 600 milioni? Ma quello è il reddito personale, poi ci sono le società e tutto. Appunto, allora vuol dire, no, ma sto dicendo che tutti questi ricconi, in un modo o nell'altro, sono tutti evasori. Sì. Lui è l'evasore più coglione, perché siccome è coglione di fondamenta, è coglione come evasore. Perché dici che è un coglione Berlusconi? Perché più, non lo vedi quello che fa. Cioè dico, in lui tutto è, come dire... gigantesco, tutto è enorme, tutto è ingrandito, anche le condanne, c'è quello che per un altro una condanna, una multa, per lui sono 4 anni. Ma perché lo chiami coglione? Cioè secondo te alla fine Berlusconi in fin dei conti è un coglione? Uno che nomina Galan presidente della commissione cultura, cosa può essere? Vabbè, adesso lascia perdere la tua fissazione con Galan, ma in generale tu alla fine diventa Verdini, uno che nomina Verdini, cioè, ce n'è uno che sia civile, cioè lui va condannato all'ergastolo per la sua vita pubblica, non per la sua vita privata. Cioè secondo te la vita pubblica di Berlusconi è una vita da coglione? È un crimine. Una vita da coglione. Ma dico, ma che scusa, facciamo un discorso. Se hai fatto le leggi a persona, quali sono state efficaci? Quindi contra persona. Le leggi contra persona hanno avuto la parola incredibile. Non è possibile che uno si faccia delle leggi per essere condannato, avendo fatto 20 anni di governo e di opposizione. Adesso dice anche che c'è stato una specie di complotto, un tentativo di complotto di Fini, nei suoi confronti, insieme a Napolitano, di cui parleremo tra poco dopo il traffico. Vittorio Sgarbi alla Zanzara, 18:45, è di nuovo candidato a Salemi, dove dice sarà eletto come con un plebiscito. Vittorio? Chi? Tu a Salemi. Ah, Salemi. Beh, noi facciamo la Zanzara da Salemi, abbiamo già la sede staccata di lì. Ma com'è un plebiscito? Sarei eletto con non è un plebiscito di più. Cioè io mi chiedo quale cittadino di Salemi potrebbe stare a me, potrebbe un altro per rimanere nella merda in cui è rimasto per 2 anni col Ma scusa, gli altri candidati che sono? Tutti dei deficienti? Che sono gli altri candidati? Il candidato di me l'altra volta, quello che ha perso da me, oggi è mio assessore. No, ma gli altri candidati che sono a Salemi contro di... Non ci sono, cioè vai, cerca i nomi, vedi. Cioè sono nullità, che sono? Secondo me fanno meglio non neanche presentarsi, perché non solo faranno una figuretta, ma poi non si capisce verso quale progetto. Dobbiamo mandarlo in pensione, Parenzo. Prima del ritorno di Sgarbi, che stiamo cercando dalle parti di Caserta, è scattato venerdì qui alla Zanzara il giallo del golpe Napolitano Fini contro Berlusconi. È scattato con una telefonata. Canzone. C'era una riunione con Fini, c'erano bellezza di 12 persone del partito del PDL, in cui Gianfranco Fini ha messo in viva voce la telefonata di Napolitano. Sì, per far sentire a tutti che quello che lui voleva fare non era una cosa personale contro Berlusconi, ma che erano gli altri sfere del potere. Vabbè, ma lei ne sa qualcosa? Io ero uno dei presenti. Dei presenti quando? Dire... Dei presenti quando chiamò chi? Quando chiamò il presidente napolitano a Gianfranco Fini. Fini mise in viva voce il telefono per far sentire a tutti, perché doveva convincere una parte del partito ad allontanarsi da Berlusconi e a far cadere il governo. Cosa disse esattamente Napolitano in quel viva voce? E chiese la disponibilità a Fini di formare un nuovo governo. Il giallo del golpe Fini-Napolitano. Era un ascoltatore che ha chiamato venerdì, Antonio da Roma, di cui conserviamo il numero di cellulare. Ho provato a chiamare oggi, mi ha risposto questa voce. Si è presentato come un ex portaborse di un parlamentare PDL, attualmente in Forza Italia, con un ruolo non particolarmente chiaro. Comunque non si chiama Antonio da Roma, la voce è questa. Ma lei è un ex deputato, un ex parlamentare? No, no, sono ancora... Diciamo che non sono parlamentare. Sono stato un... diciamo un portaborsa di senatori del PDL. Il presidente da qui al 25 maggio se ne uscirà con dell'altro materiale su questo presunto golpe? Sì. Diciamo che darà qualche nome, se glielo chiederà. Qualche nome dei 12 presenti? Dei 12 presenti. Lui ha tutta la lista dei 12. Berlusconi ha tutta la lista dei 12. E nell'intervista che andrà in onda questa sera a Piazza Pulita, Berlusconi parla ancora e accusa Napolitano del golpe Fini. Io voglio dire, caro Vittorio, ma chi interessa sta roba qui del golpe Napolitano Fini? C'è un modo Ho comprato un Nokia 24 euro, solo telefonate, dura 3 giorni, mi dicono. Beh, stupendo. Una ragazza di Casetta, bravissima. Cioè, la carica dura 3 giorni. Intanto dura 3 giorni, solo prende 1000 messaggi che vanno anche intanto bene, hai rimorchiato pure una là, mi sembra, no? Mi sembra questo che devo fare. Poi vai a vedere se lo vendono 19, perché c'era quel Nokia e forse lo vendevano 19. Scusa, Vittorio, ma in ogni parte, ovunque tu vai, hai sempre una donna dietro, diciamo la verità. No, questa volta ne ho due, perché non vado quasi mai, non vorrei essere, sai quando tu sei buonasera, come va? Devo cercare, sono venuto a vedere la legge che invece è ben conservata. Vabbè Vittorio, dai, dimmi, quando tu vai hai sempre due donne dietro, non ho capito. No, due, tre o quattro, ma perché il tema, no, l'ho visitata bene, meglio tenuta di quanto non dicano. Però, allora, vai. Allora, quando tu sei con una persona a cui vuoi bene, sei uno, quindi in quel caso sei da solo, quindi per essere in due occorre essere in tre, è un dato matematico semplice, perché se tu fai una sola persona con un'altra che ami, occorre che ne trovi una terza per essere in due. Detto questo, comunque, dovunque vada, giro, l'ho portato queste due ragazze a vedere la grazia di Caserta. E ma stasera dove dormite? E stasera io sono, ecco, mi vedi, io sto andando a Piacenza, però non ci andrò perché mi hanno fermato per fare una diretta su Rai 1 sulla Juventus che gioca a Sassuolo. La Juventus a Sassuolo, che cazzo ci vai a fare su Rai 1? Me l'hanno chiesto, mi pare una buona cosa però. Ma una buona cosa, cioè, sulla Juventus che gioca a Sassuolo. No, cosa? Perché pare che io sia uno storico juventino, cosa che è vera. Ma io sono juventino del tempo di Sivori. No, ma tu sei tifoso della Juve? No, non sono un mito. Dillo anche, ecco, prova a dirlo a Cruciani, va. Chi è? Dillo. Senti che c'è la ragazza di Caserta. Chi è? Salve, originaria di Napoli però. Come si chiama? Perché sta dietro Vittorio Sgarbi? Perché sta dietro Vittorio? Ho parlato con lei, la prego. Ecco. Ma perché sta dietro? Io non capisco perché. Ma io sono all'aperto, quindi mi stanno intercettando. Sto bene, Ale. Sei bellissima. Quindi veniamo a chiamare. Scusa Vittorio, però aspetta. Ma tu perché squadra tifi? Per la Juve, Vittorio? No, non tifo più per nulla, ovviamente. Per nulla. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere era questa. Allora, oggi ci sono state pubblicate le motivazioni di una sentenza sulla vicenda Tarantini Escort. Scrivono di Berlusconi: oscenità e bassezza, mercimonio del corpo femminile e considerazione delle donne come semplici oggetti suscettibili di commercio a scopo sessuale. Poi dicono a casa del cavaliere una fiorente attività di prostituzione. Queste ovviamente sono... è la ricostruzione dei giudici, ma soprattutto parlano appunto di ragazze dedite in forme più o meno stabili all'esercizio della prostituzione, oppure erano aspiranti, concedevano prestazioni sessuali. Ma non hanno interrogato me, che ho visto numerosi bunga bunga, che ho detto a Berlusconi di rivolgersi alla Bernardini De Pace per difendere l'onorabilità di queste donne. Cioè, una donna può fare quello che vuole. Una donna che sposa uno ricco è una troia. No, sposa uno ricco, parlo solo valutazione. Una donna che trova un produttore cinematografico avrà qualche vantaggio. Cosa stanno dicendo questi beoti che fanno delle sentenze morali legate alla questione? Se uno pensa che il più grande intellettuale italiano pagava i ragazzini minorenni, si chiama Pasolini, l'ho detto mille volte, mi devono spiegare perché nel 1953 Pasolini per lo stesso reato, concussione perché dava i voti buoni ai suoi ragazzi e rapporti con minorenni di tipo omosessuale, lui è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Siamo arrivati 60 anni dopo che questo è un reato, ma che sono dei pazzi? Oscenità e bassezza, cioè giudicano quello che è successo dentro casa Berlusconi in pratica. Sì, no, io ho visto tra l'altro Berlusconi e queste ragazze trovando interesse di chiunque. Ma tu hai visto anche atti sessuali di Berlusconi, non no? C'erano, ma non c'erano perché non faceva niente. C'era, lui fa due cose: intorno alle 11:30 racconta barzellette, spesso le stesse, sì, e intorno a 12:30 comincia a cantare con una picella. Fine. Vabbè, dopo che ne sai quello che succede dopo? Perché vedo anche il dopo è una tavernetta dentro la sala del Bunga Bunga dove lui sta seduto a parlare e queste stanno a una sbarra di lap dance. Quello che capita in qualunque discoteca. Ma questa morale del mercimonio devono rimangiarsela tutta, questi falsi moralisti. Neanche i preti fanno queste prediche. Perché la predica è nel sì, sembra una predica, sì, sembra una predica. No, no, una donna deciderà di fare quello che vuole se trova interesse. Lori del Santo. Vabbè, quante ce ne sono state? Perché Lori del Santo, dici? Non è stata con Khashoggi? Qualcuno ha fatto un processo per questa cosa qua? No, beh no, cioè qualcuno allora, la chiama prostituta. Se un uomo ricco è un suo diritto, se quell'uomo ricco le dà delle opportunità, è una donna intelligente e furba. Non è che se io le ho viste queste qui, perché quando tu vai a teatro, il regista, il produttore, invita l'attrice, a volte ne diventa la... Helmut Berger stava con Visconti. Era una puttana. Alain Delon stava con Visconti. Che cazzo stiamo dicendo? Cosa dicono questi deficienti? Le ragazze che cercano fortuna, soprattutto nel mondo dello spettacolo, trovano l'uomo più ricco d'Italia, che ha la televisione e che ha Medusa, sperano che gli dia delle parti, come qualunque persona che sia in quell'ambito. Vabbè, poi dice che non è... delle coglionate, questa gentaglia immonda che fa la morale sul comportamento... Erano portate, pare, da Tarantini, che poi ci guadagnava sopra, poi, eccetera. Tarantini è un fenomeno marginale. Ma il Samsung? Vedi che minchiate che dite, oh. Che orrore! Devo dire che la cosa migliore di quello che avete fatto dopo Radio Belva è l'assestamento e il miglioramento di Parenzo, che mi pare quasi perfetto. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba. Davide, ci sei? Sì. Eccoci qui, allora tu ci credi al golpe di Fini e Napolitano contro Berlusconi? Che orrore! Adesso tieni gli occhi aperti e baciami, baciami. Se ti lasci anche piano, si avvicina, avvicina. Ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica. Ma nella zanzara parti il piatto forte, siamo noi. Chi è l'autore della telefonata misteriosa arrivata alla zanzara intorno alle 20:40 di venerdì scorso, il 25 aprile? La premessa è questa: Napolitano, anzi Berlusconi, parla a porta e dice: ho 12 testimoni di un presunto golpe Napolitano-Fini per farmi fuori nel 2010. Il capo dello Stato avrebbe tramato contro un governo eletto in carica. Sono 12 testimoni che hanno sentito al telefono la voce del capo dello Stato. 12 testimoni. Messa in diretta da Gianfranco Fini per convincerli che non stava facendo un'operazione da solo, ma che aveva le spalle coperte. Forse dovrebbe tirarli fuori, perché un'accusa è grave. Va bene. Io sono pronto. Siamo ai limiti della lesione costituzionale, Presidente. E chi capisce quando c'è un governo in carica? Ma lei pensa che una persona della mia età, della mia cultura, della mia responsabilità possa dire queste cose a vanvera? Nel libro di Friedman si dice questo poi. Questo a porta, il giorno dopo qui alla Zanzara interviene un signore che successivamente sarà identificato come un ex portaborse di un parlamentare PDL presente quel giorno a Via della Scrofa, Antonio da Roma, nome falso, come da lui stesso dichiarato, però forse riconoscibile dalla voce. Dunque voi che magari frequentate il mondo della politica, chi ci sta ascoltando potrebbe anche averlo riconosciuto. Antonio da Roma parla su Fini, Napolitano, la telefonata messa in viva voce, la telefonata tra Napolitano e Fini che è stata fatta ascoltare a 12 persone per convincerli che Fini stava facendo sul serio e che aveva l'appoggio delle alte sfere, cioè del Presidente della Repubblica. C'era una riunione con Fini, c'erano bellezza di 12 persone del partito del PDL, sì, in cui Gianfranco Fini ha messo in viva voce la telefonata di Napolitano per far sentire a tutti che quello che lui voleva fare non era una cosa personale contro Berlusconi, ma che erano gli alti sfere del potere. Vabbè, ma lei ne sa qualcosa? Io ero uno dei presenti. Dei presenti quando chiamò chi? Quando chiamò il presidente Napolitano a Gianfranco Fini. Fini mise in viva voce il telefono, sì, per far sentire a tutti, perché doveva convincere una parte del partito, sì, ad allontanarsi da Berlusconi e a far cadere il governo. Cosa disse esattamente Napolitano in quel viva voce? E chiese la disponibilità a Fini, sì, di formare un nuovo governo. Caro David, ho interpellato oggi questo signor Antonio di cui abbiamo il numero di telefono. Ne viene fuori un quadro piuttosto inquietante, perché innanzitutto dice questo Antonio che oggi lavora in Forza Italia, ma che lavora nell'ombra. Senti. Faccio parte di una schiera di persone che non possono rivelare la loro identità. Vabbè, ma non è che siamo nel campo una cosa. No, perché gli ripeto, purtroppo siamo una schiera di persone che siamo in alcune situazioni neanche sanno chi siamo. Diciamo che siamo fra i fondatori dei club e quelli che coordinano un pochettino tra i club di Forza Silvio, i club di Forza Italia, e lavoriamo più nell'ombra che nella cosa. Vi posso dire solamente che abbiamo a breve un altro incontro in cui il presidente darà il suo benestare per pubblicare altre cose che verranno dette. Una struttura parallela. Ero un portaborse del PDL all'epoca, 2010. Ma lei è un ex deputato, un ex parlamentare? No, sono ancora, diciamo che non sono parlamentare. Sono stato un portaborse di senatori del PDL. Berlusconi farà i nomi dei 12. Il presidente da qui al 25 maggio se ne uscirà con dell'altro materiale su questo presunto golpe? Sì, diciamo che darà qualche nome, se glielo chiederà. Qualche nome dei 12 presenti? Dei 12 presenti. Lui ha tutta la lista, sì, dei 12. Ma chi è secondo te? Un millantatore questo qui? Ma no, perché dovrebbe essere un millantatore? Quella non era nessun golpe, è una crisi politica. Cioè, non è che bastano le pressioni cosiddette di Napolitano per far cascare un governo, ci vuole una volontà dei deputati e dei parlamentari che ho capito, ma lui racconta che Napolitano tramò, lascia perdere Fini che può fare quello che vuole, Napolitano tramò con Fini per fare cadere Berlusconi. Questo ovviamente, questa è una lettura, vabbè, ma questa è una lettura anche legittima, politica, che Berlusconi ovviamente in campagna elettorale può fare. Certo che i deputati che poi l'hanno fatto cadere, non è che l'hanno fatto cadere perché Napolitano... Ma innanzitutto nessuno l'ha fatto cadere, Berlusconi si è dimesso da solo. Però voglio dirti... Appunto, l'altro. No, ma nel 2010, il punto è questo. Napolitano è sufficiente a dare chissà quali garanzie a un libero Parlamento, ma che vuol dire? No, ti sto dicendo, la questione è questa. È credibile che Napolitano abbia tramato insieme a Fini per sostituire Berlusconi, sì o no, secondo te? È molto credibile che Napolitano, da capo dello Stato, per capire qual è il contesto politico, qual è il clima, sente normalmente i partiti per vedere se ci sono delle crisi, qual è la situazione. Vabbè. E può essere telefonato a Fini, certo, come no, per capire qual è l'umore, quali sono i numeri. Comunque qualcuno dice, magari ci hanno fatto uno scherzo pure a noi, magari questo qua è un buffone che ci sta facendo uno scherzo. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Bufera su Berlusconi per le frasi sulla Germania e l'Olocausto. Parole assurde secondo la Merkel. Il presidente del PPE Juncker, siamo disgustati. Ennesima speculazione della sinistra europea, replica Berlusconi. Io sono amico del popolo ebraico. Poi attacca Napolitano, doveva darmi la grazia. Per la riforma del Senato i tempi si allungano, ma la mediazione è possibile. Domani l'assemblea dei senatori PD, nasce la componente area riformista. Tra i consumatori italiani torna la fiducia ai massimi dal 2010. Palazzo Chigi, nessuna manovra bis. Padoan, nel 2015 spending review più pesante. Parlano da Jeddah, una TV occidentale, le figlie del re saudita Abdallah. Aiutate, ci siamo recluse da anni nel palazzo. E la madre conferma. I primi risultati dei test all'università. Per medicina più studenti idonei che posti. E molti dei promossi potrebbero essere costretti a cambiare sede. Gli lanciano una banana in campo e lui se la mangia. Il gesto dell'alto del pallone Dani Alves diventa manifesto antirazzismo in vista del mondiale in Brasile. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Allora, dove andiamo? Anna Maria, provincia da provincia Milano. Buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo solo evidenziare che il Sole 24 Ore non è proprietà di Berlusconi. E allora? Io sono convinta che lei non dorme la notte se non deve continuare per almeno, non so, un'ora, due ore a propinarci questo, sì, questo signore. Sì, ma non sono io che propino, è la politica italiana che offre questo. Parla sempre, lo so che le fa il squavolo che vuole. No, Anna Maria, è Berlusconi che sta parlando, non sono io che parlo di Berlusconi. Berlusconi parla, dice delle cose e queste... Ma lei nomina solo lui. Ma non è vero, guardi, adesso parleremo anche di Renzi, ma di quello che ha detto Cruciani, sul Senato. Lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. No, 6 della mattina a mezzanotte, non siamo in onda dalle 6 del mattino a mezzanotte. Sono pezza, ecco. Cioè, e poi sa cosa mi stupisce, sì, Cruciani? Sì, mi dica. Che Roberto Napolitano, che sì, persona così seria, non taccia, non le dica mai niente. Ma su che cosa? Non ho capito. Ma a parte chi gliel'ha detto che non mi dice mai niente? Non lo so, ecco, non lo sa, se non lo sa, se non lo sa, stia zitta. Perché cominciavo a pensare un poco male. Ecco, bene, Anna Maria, grazie. Giuseppe da Prato, arrivederci. Giuseppe da Prato. Buonasera. Dica. In merito alle fantastiche dichiarazioni di Berlusconi, io volevo spezzare una lancia a favore della Germania, che come vera democrazia ha fatto molto per ricercare e condannare i criminali nazisti, mentre noi italiani non abbiamo fatto niente, nemmeno un processo ai nostri criminali, che sono tanti in Grecia, in Albania, in Montenegro, da tutte le parti, quelli che poi hanno provocato le foibe. Vabbè, ma non bisogna, voglio dire, è evidente che poi uno vada ad approfondire, la frase di Berlusconi è una frase senza senso. Però ho capito, però Berlusconi, Berlusconi dice queste cose per attizzare un po' di risentimento nei confronti della Germania. Sì, siamo in campagna elettorale. No, la campagna elettorale non basta. Noi allora c'è un ricordarci. Sondaggio, Parenzo, sul sito di Libero. Secondo voi Berlusconi deve sul sito di Libero, ovviamente. Secondo voi Berlusconi deve scusarsi per le frasi sulla Germania? Lo sai quant'è il no? Pronto? Mi senti? Non c'è più. Vabbè, ragazzi, che pazienza che ci vuole. Che pazienza. Sono tempi duri. E ancora in casa. Le zanzare. Allora, c'è una cosa di Berlusconi dalla D'Urso che vi devo far ascoltare assolutamente. È quando Berlusconi dice: è una favola quella che cani e gatti insieme non possano andare d'accordo. Ce l'abbiamo quella? Beh, stupenda. Non ci importa se il tuo. C'è un'altra: cane, canile, ama subito un nuovo padrone, una cosa del genere. Sempre sui cani, eh. Prima del morso ti puoi anche confessare. Ho scoperto degli studi per cui non l'avrei immaginato, ma un cane preso da un canile municipale e tenuto vicino a sé dal nuovo padrone che gli dà il pranzo e la cena, gli dà una carezza, in 3 giorni diventa attaccato totalmente, diventa innamorato del suo padrone, diventa un amico leale per sempre. Quando si comincia a parlare dei cani significa che è tutto finito, lo sapete, no? È tutto finito. Beh, Francesca è una curiosona, una sinfonia, legge fino alle 2 di notte. Mi è stata sempre vicina e mi ha sostenuto anche in momenti delicati, mi ha dato serenità, e poi è una curiosona, quindi per esempio io lavoro da sempre fino alle 2:30 di notte e lei fino alle 2:30 di notte legge per aumentare le proprie cognizioni, la propria istruzione, ed è un'enciclopedia vivente. Guardi, io se dovessi dirle che qualche cosa di preciso su Francesca non riuscirei, perché è una sinfonia, c'è dentro tutto. Ah, ah sì, ma che carino! Fulvio da Roma, 800 24 00 24. Pronto? Sì, Fulvio? Pronto? Vai. Non ci sono? Sì. Alleluia, finalmente. Mi dispiace che manca Sgarbi. Comunque, ci siete voi due, bel colpo, no? Perché Parenzo c'è, mi sembra. Allora, tanto per ristabilire un minimo di verità, quando si parla di evasione per Berlusconi è una cazzata, perché ci parla... lui ha frodato, un altro tipo. Ma l'abbiamo di detto a Sgarbi, lo abbiamo lo detto. Lo vorrei dire al grande genio Sgarbi, e mi meraviglio che voi due arguti e intelligenti non lo riflettiate. Ma gliel'ho detto che sono Fulvio, gliel'ho detto che sono due cose diverse. No, lo devi sottolineare, caro Giuseppe. No, lo sottolineiamo. Siamo sotto le elezioni, voi parlate a milioni di persone, basta con le menzogne. Va bene. E poi scusami, ma che cazzo di argomento è? È il primo contribuente. Ma infatti non è un argomento. Il contribuente non può essere il primo evasore. Certo. Ma che cazzo di argomento è? Poi, la cifra di cui si parla non sono i residui 7-8 milioni. La storia nasce da 300 milioni. Perché Berlusca, con tutti i suoi amici, sì, lo sai benissimo, visto che... No, questo non lo so. E non c'entra un cazzo col fatto che io frequento Mediaset. No, fammi finire, per cortesia. Senti, Fulvio. Questa è verità, ok? Sì, benissimo. Dato che Parenzo non lo dice, il caro Parenzo, un altro recchiacuro che tengo famiglia pure lui. No, scusami, caro Fulvio, sì, devi sì, darti ti ascolto, una... dai, rispondimi allora. Perché devi non lo sottolinei intanto una bella di frode lezione fiscale? E quindi è penale, è caro penale, Fulvio, non è amministrativo. Intanto... Dai, mi calmo. Ti devi fare, caro Fulvio, una bella iniezione di bromuro intanto, perché ti devi calmare, perché sei sotto effetto di... di fronte alle cazzate ripetute giornalmente non è facile. Non c'è nessuna cazzata, perché... E voi non... intellettualmente non siete onesti. Ma devi non stare... Non potete permettere a Sgarbi di dire continuamente cazzate, perché è il genio Fulvietto di un'antica, ok? Non me ne frega un cazzo! Fulvio! Cazzate, bisogna reagire! Voi siete intellettualmente disonesti, Fulvio. Certo, lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so, Cruciani, che tu non sei Giannino, mi senti? Sì, ti sto ascoltando. Non sei Barisoni, ma di fronte al fatto che questa è la quinta, sesta, settima volta che dice negli altri paesi non vanno in prigione per evasione, Sgarbi del cazzo. Ma Sgarbi, dell'altro, si parla sempre di scopate perché si ammazza di seghe, diglielo, lo dicono tutti, psichiatri, psicologi, donne, uomini, la mia esperienza. Io ho degli amici che parlano per le scopate e so che si ammazzano di seghe. Lascialo. Sgarbi si ammazza di seghe, ne sono convinto. Vabbè, Fulvio, scusa. A questa menzogna. Fulvio. Perché non ribatti rispetto a questa menzogna? Fulvio, ma che cosa hai fatto oggi innanzitutto? Sono in casa. Allora, caro, la verità. Sì, ma stai tranquillo. E mi sono stancato di sentir dire, tra l'altro Sgarbi ha urlato, tra l'altro io sono un grillino, Parenzo, sono un grillino. No, ma non sei un grillino, sei uno che il medico ha liberato, ha fatto uscire dall'ospedale senza fare la perizia, questo è il problema tuo. Sui microchip, informati sui microchip, l'ignoranza mista è... coniugata. Ma quali microchip? Un cocktail esplosivo. Vabbè. E tu sei sia ignorante che presuntuoso quando dici i grillini parlano di microchip. Informati qual è l'avanguardia della tecnologia. In vabbè, merito. Fulvio, informati. hai ripartito bene con Berlusconi, poi sei andato a derapare sui microchip. È vero, i microchip è vero, non c'entrano nulla, lascia perdere. Quello, i microchip sono delle puttanate. Allora, a noi. Ma stai calmo, adesso non mi fa arrabbiare. Stai calmo, stai tranquillo. Gli ho detto. Rispondimi, sono due cose. ma l'ho detto a Sgarbi, ho detto a Sgarbi che fare il paragone tra la frode fiscale, cioè il reato per cui è stato condannato Berlusconi al termine di un processo lunghissimo, e insieme l'evasione fiscale, cioè degli accertamenti, non se ne parla di evasione, forse non hai capito, ma ho detto frodato, ossia partito, dai, lascio dei meccanismi per... ha fatto tutto un gioco per mettere dei milioncini fuori dall'Italia, ma lo vogliamo capire sì o no? Chi evade? Perché non emette uno scontrino? Che è diverso! Ma chi la... Ecco perché l'evasione prevede una pena amministrativa! Invece la frode, cari intelligentoni, caro Parenzo, ti informo! Dillo quando ti capita in giro! Ristabiliamo la verità! Caro Fulvio, lo caro abbiamo... Caro Parenzo, lecchia culo! Vieni avanti, cretino! Vieni avanti, cretino! Ma vieni avanti, grillino! Vieni avanti, grillino! Mettiti il microchip come più ti piace, hai capito? Non vale un cazzo! Mettiti il microchip dove più ti piace, io per... certo, dove più ti piace ti puoi mettere il microchip! Dove più ti piace! Dove più ti piace! Quando Sgarbi torna, diteglielo, quando certo Fulvio dice che lui è un barman, io sono un barman, ma Fulvio dice che non è detto che sia un... Fulvio, Fulvio, facciamo così, guarda, Fulvio, Fulvio, primo contribuente, Fulvio, facciamo così, Fulvio, hai ragione, Fulvio, hai ragione tu, è vero, ma... Diglielo Sgarbi, per favore. Allora, altrimenti voi siete disonesti intellettualmente. Allora Fulvio, vuoi stare calmo? Vuoi stare calmo? Stai un attimo calmo. Allora, primo, ho detto a Sgarbi che sono due cose diverse. Numero due, no, non mi sembra che... No, e invece hai sbagli, vattela a risentire. Lo è, ho capito, ma che devo fare? Devo ammazzare? Aspetta un attimo. Devi dire, sei un giornalista, lo sai. Allora Fulvio, la seconda cosa, stai zitto, stai zitto, oddio mio, un attimo solo, prima cosa questa cosa qua, seconda cosa, ho detto a Sgarbi che anche uno che è il principale contribuente, certo, può essere tranquillamente un evasore, io l'ho detto, dopodiché non è che l'ho impiccato, non l'ho ucciso, perché lo devo tenere lì, lo devo tenere fermo, hai capito o no qual è la cosa? Santa prescrizione! Aspetta un attimo! Santa prescrizione! Fulvio! Fulvio, ci vuoi parlare? Adesso, scusami, Lucia, scusami! Adesso te lo metto in collegamento, diglielo tu a Sgarbi, adesso lo chiamo, te lo metto in collegamento. Però lo devi massacrare come stai massacrando adesso noi, lo devi massacrare. Dammelo! Aspetta un attimo! Dammelo sto cazzaro, dammelo! Aspetta un secondo! Dammelo! Aspetta! Dai, chi si muove? Aspetta un attimo, ma aspetta. Ma io ho i soldi per parlare con Sgarbi. Ma quanto volete? Fatemi parlare con Sgarbi. Ma perché secondo te si ammazza di seghe? Scusami. Perché dice che scopa sempre. Non è possibile. Uno, due, tre, quattro donne. Ma che cazzo? Pronto? Sgarbi? Chi è? Ma chi vogliamo? Ah, sono Nicola. Nicola, passami Vittorio un attimo, che sì, c'è un ascoltatore che ci vuole parlare. Sì. Un attimo. Pronto? Vittorio, aspetta un attimo. Non è la materia? Aspetta, senti Fulvio da Roma prima e rispondi a Fulvio da Roma. Fulvio, vai. Vittorio? Sì. La materia non è storia dell'arte, io ho studiato sull'Argan un grande, un mattone, parliamo di altro. Allora, tu sai che ci sono, c'è il reato penale e quello civile, sai che l'evasione fiscale è il reato civile, amministrativo, invece la frode, F-R-O-D-E, frode. Aspetta, fallo parlare, Vittorio, fallo parlare. Esilio, allora la frode è un altro tipo di reato, è un'altra fattispecie giuridica. Parla con qualche tuo amico avvocato, parla con chi ti chiama. No, gli parlo, il Parlamento. Io non sono entrato nel merito. Ma questa è la prima cosa. È fondamentale l'evasione e la frode, sono due cose diverse. E la seconda cosa, la seconda cosa. Poi, seconda cosa e poi ti lascio parlare. Sappi che l'argomento è il primo contribuente, è serie, non significa un cazzo, perché il primo contribuente può essere perfettamente il primo evasore o frodatore, ma che cazzo l'argomento è? Io sono un marman, ma il cervello ce l'ho aperto, quindi a me per culo non mi ci prendi, caro Sgarbi, capisco che devi mangiare, capisco che meglio se stai da mangiare a tutti, pure a Parenzo, ma io voglio ristabilire un po' di verità. Vittorio, vai. Allora, il tema è molto semplice, io non faccio il giudice e non discuto il reato di Berlusconi, ammesso che lui sia colpevole come la Cassazione ha stabilito. Dico una serie di cose diverse, che uno si può ritenere innocente, ed è quello che dice lui, e che lui dice, e ha ragione, di essere il primo contribuente italiano. Allora io dico, quale utilità ha la condanna ad andare a imboccare i malati invece di dire paghi quattro volte quello che hai evaso? A questo punto lui paga 20 milioni di euro e questo serve a tutti noi, ammesso che questo. Però lui, Fulvio, dice un'altra cosa. Fulvio dice che tu hai detto che è un evasore fiscale come tanti altri, invece lui dice frode fiscale, ed effettivamente anch'io te l'ho fatto notare. Questo è un problema tecnicistico che può volere anche e la seconda cosa dice Fulvio, che l'argomento che è il primo contribuente italiano non c'entra nulla, perché anche il primo contribuente non è l'argomento mio, dico, parlavamo di lui, voi non avete mai letto forse Luigi Russo, io interpretavo il pensiero suo. Federico, lui dice che vuole la grazia. Ho capito. Perché si ritiene il primo contribuente italiano, e se qualcuno ha evaso, o lui, o ha fatto frode, sì. Ma lui dice che non l'ha fatta, io credo che la misura utile per i cittadini non sia mandarlo a fare i servizi sociali per rieducarlo, cosa impossibile, ma fargli la multa di molti milioni di euro per quello che non ha pagato. Fulvio, poi dico io tutto qua, ma ho capito, Fulvio, ripeti politico. Però se hai il coraggio davanti a Vittorio quello che dicevi prima sul sesso. Ripetilo. Sul sesso sì, ma mi sembra chiaro. Allora, Garbi, o c'hai a pompetto pure tu, ma come cazzo fai a scopare 3-4 volte a sera? Ma poi scusa, io conosco molti amici miei che dicono voglio ricordare a Fulvio, che Oscar Wilde è ricordato, è stato arrestato, non mi lamentare, aspetta, sì, allora dico, vogliamo discutere, Fulvio, stai calmo, ognuno si fa i cazzi suoi, si chiamano cazzi suoi per quello, non è che dobbiamo sentire che uno entra nella mia camera da letto, se ne scopo 4, 2 o 1, sono cazzi miei, anche per Berlusconi, e allora se Pasolini poteva inculare i ragazzini e pagarli, Berlusconi potrà fare quello che gli pare. D'altra parte, se ci sono delle troie, quello che qualcuno le paghi, sì. Altrimenti non le vanno. Io, Fulvio, non ho capito, Fulvio, perché parli del sesso di Sgarbi. Che te ne frega a te se si fa? È vero, che hai fatto un incidente automobilistico tempo fa, vero, molto brutto, no? Ha rischiato, anche il suotista ha rischiato, vero? Vabbè, allora qual è il problema? Allora, se il suotista così colposamente avesse ucciso tre persone, gli urlerebbe assassino, come fa sistematicamente in televisione rispetto a Grillo, perché sai, sono un grillino scemo. Ma che c'entra questo? Che c'entra? Senza avere il contraddittorio due o tre volte in televisione, assassino. Cassaro, tu devi specificare di quale assassino stiamo parlando. Hai detto che dai all'assassino a Grillo, può Vittorio. Può capitare anche Alonso, può capitare anche a Lauda, può capitare anche a te. È impazzito e questo. Te lo auguro. Tu intellettualmente sei un disonesto. Fulvio. Fulvio. Assassino, perché 8 persone su 10 che sentono dire da te che Grillo è un assassino ci credono. Hai capito come cazzo stai te? Tu scopi troppo. Vittorio, Vittorio, uno che viene condannato per omicidio colposo è un assassino. Fulvio, adesso stai zitto. È un assassino. Voglio dire, è un dato, non è che stiamo a discutere le questioni giuridiche soltanto a danno di Berlusconi. È tecnicamente un omicida colposo. Altrimenti perché l'avrebbero condannato? Io non capisco perché questo è fissato con quante volte fai sesso oppure no, sto Fulvio. Comunque, vabbè. Ma questo non so chi sia, ma poi penso, ma è risulta rilevante. Cioè, il tema grave delle questioni sessuali è questo. L'altro giorno il mio autista Macellani, arrivando Sabrina in un luogo dove io ero con una ragazza che non doveva esserci, secondo me, è stato messo nelle condizioni di andare a dormire con questa ragazza. Di notte, avendo antipatia per lei, non l'ha scopata. Ma chi gli potrebbe dire nel proprio letto quello che uno fa al buio? No, ma certo. Ecco, e allora, questa è la vita delle persone. Vabbè. Il buio e il letto sono materia insindacabile. E quindi se Berlusconi con Rubio ha scopato o meno, lo possono dire solo loro due. Se dicono di no, no. Non è che tu puoi andare oltre la loro dichiarazione. Poi dicono le intercettazioni, le cose, si capisce dalle frasi, delle amiche, di quello, di quell'altro. Io posso vantarmi di aver fatto una cosa che non ho fatto. Vabbè, ciao Vittorio, Fulvio era impazzito. Ciao. Calma, tranquillità, serenità. Calma, tranquillità, serenità. Calma, tranquillità, serenità. Fulvio da Roma. Devo dire che però è il numero uno, Devo dire molto, che è il numero molto, uno. Bravissimo. Quasi all'altezza, come si chiama, del tuo di nemico? Riccardo. Di Riccardo, sì. Chissà il perché... problema è, evidentemente gli è rimasto il microchip, non so dove, e quindi questo gli ha creato un cortocircuito, non so in quale zona del suo corpo, perché era un po'... Però a me queste persone, che gli è partita la brocca, ha chiamato, ha fatto l'inferno, ha attaccato Sgarbi. No, ma ha detto detto anche alcune cose sensate. Assolutamente. Poi... Ma è con noi il sindaco di Verona, Flavio Tosi, buonasera. Sì, buonasera a voi. Come andiamo? Bene, grazie. Allora, caro Tosi, c'è una cosa che le voglio chiedere. Lei si candida alle elezioni europee con la Lega nella sua circoscrizione, in Nord-Est, e contemporaneamente sindaco di Verona. Mi sia sincero con me, come quasi sempre è durante le nostre trasmissioni, durante i nostri incontri, questa volta più delle altre volte. Se lei fosse, se lei sarà eletto a Strasburgo, a Bruxelles, quello che è al Parlamento europeo, resta sindaco e si dimette dal Parlamento europeo oppure farà il parlamentare europeo? Punto interrogativo. Resto sindaco. Cioè lei si candida, diciamo, per far prendere voti alla Lega, per misurarsi con l'elettorato? Per quale motivo si candida? Per... Come Matteo Salvini, che è segretario federale, si candida capolista in tutte le circoscrizioni per dare una mano al movimento a raccogliere consenso, cosa anch'io, una candidatura, diciamo, di servizio per dare una mano al movimento a raccogliere consenso. Per cui sicuramente non farai parlamentare europeo, beh, Salvini è diverso. Per me... ho ancora da fare 3 anni sindaco di Verona, quindi. Cioè non si lascia Verona per Strasburgo, insomma. Esatto. Però Salvini, lei ha fatto l'esempio di Salvini, che è un esempio che non è particolarmente corretto, perché Salvini in realtà è già parlamentare europeo. Comunque lei dice: io mi candido per dare una mano al movimento, la mia è una candidatura cosiddetta di bandiera, e in realtà rimango a fare il sindaco di Verona. Senta, ma Parenzo, perché... No, è brutto, questo è brutto, perché in perché realtà è brutto, dico, ma lo fanno, ma tutti molto che brutto. Brutto, perché? Perché? Molto brutto, perché in realtà cioè, l'Europa... tu dici perché la gente dovrebbe votarlo? Ma no, ma che cazzo, ma uno chiede, scusami, il voto di preferenza peraltro, no? Quindi è chiaro che dice voglio quella persona là a Strasburgo e Bruxelles. In questo momento c'è bisogno di gente che ci vada, non candidature di bandiera per tenere su furbescamente la lista. Lo dico all'amico Tosi, che peraltro ha fatto un'altra roba di cui poi parleremo. Voglio venire a fare il mendicante a Verona, io voglio mettere. No, là ha fatto benissimo. Lì, ecco, su quella, sapevo, roba lì ha fatto benissimo. Ma lo sapevo, perché voi odiate i poveri! Voi odiate la povertà! No, non odiamo la povertà, noi odiamo la pulizia, noi odiamo la sporcizia. I poveri esistono invece! No. I poveri esistono! Noi hai odiamo capito? La sporcizia, che è un'altra cosa. Ah, perché le persone che chiedono la carità sono sporcizia? Beh, anche, provocano anche sporcizia. Anche il sindaco. Vabbè, adesso ci andiamo. Adesso ci andiamo. Okay. Replichi Tosi, se vuole, la prima critica che le faceva Parenzo. Quale delle due? Perché dopo l'ho sentito un po' agitato. Sì, si è agitato moltissimo perché dice che odiamo i poveri. Io e lei, siccome siamo d'accordo sulla cosa che ha fatto lei con le associazioni lì, sul fatto che non bisogna dare da mangiare ai barboni al centro di Verona e che vuole multare quelli che danno da mangiare, lui dice che odiamo la povertà. Però vabbè, lasciamo perdere. Odiate i poveri voi, odiate. Vabbè, andiamo poveri. Sulla prima cosa per il momento. Sì. Allora, poi, la cosa è questa. Lui dice che siccome lei chiede le preferenze, è immorale candidarsi dicendo che poi non verrà eletto. Questo dice in sostanza. No, è molto morale dirlo, è immorale far finta di e poi rinunciare al ruolo, ed è molto corretto dirlo prima, come sto facendo io. Però è vero che la gente che la vota in realtà è un voto sprecato, un voto inutile, perché tanto... No, perché la gente che la vota sa già che io faccio questa scelta, io l'ho ripetuto in tutti i contesti nei quali sono andato a confrontarmi in termini di campagna elettorale. È una richiesta di fiducia dei cittadini nei miei confronti, sapendo che resterò il sindaco di Verona. Cioè lei dice meglio la trasparenza che quelli che poi non sanno che fare No, oppure che hanno già in mente di fare un'altra cosa e non lo dicono, e lo fanno solo, ci sono diversi capilista di altre forze politiche che lo fanno solo appunto per aiutare il movimento, la loro forza politica a raccogliere consenso, e poi rinunceranno al seggio europeo. Io almeno lo dico prima con trasparenza. Quanti voti vuole prendere? Cioè, per sentirsi ancora il mio, uno basta. Vabbè, dai, su, sotto 50.000 è una delusione, dai. Ma sotto uno è una delusione, perché se sbaglio a votarmi pure io, allora è un problema. Sì, vabbè. Allora, l'altra cosa è questa, ed è una cosa, come dire, importante. Lei ha detto che vuole multare quelli che danno da mangiare ai barboni al centro di Verona. Adesso non specifichiamo la zona, le cose, eccetera. Ha messo delle multe fino a 500 euro, se non sbaglio, no? Sì, allora, diciamo, spieghiamo il contesto. C'è una zona particolare in centro alla città, che è un giardino piuttosto piccolo, perché sono poche decine di metri quadrati, dove ultimamente è un fenomeno che purtroppo è esploso come numeri e degenerato nelle ultime settimane, alcuni cosiddetti senza fissa dimora non sono, diciamo, il tipico barbone veronese, diciamo, che era diventato un'abitudine quasi anche per cioè chi locale. Sono questi qua? Sono delle persone che sono arrivate recentemente e che hanno deciso di fatto di vivere in questo giardino. Vivere vuol dire mangiare, dormire, farci pure i bisogni fisiologici, ovviamente nel giardino, perché non ci sono servizi. Cioè, ho capito, la multa a chi dà allora, da mangiare siccome, a queste persone? Allora, siccome queste persone sono rimaste a vivere, ripeto, in questo giardino, perché lì venivano rifocillate, allora abbiamo detto alle associazioni caritatevoli che fanno questo servizio di non fare questo servizio lì in quel giardino, perché in quel giardino ha quelle conseguenze. Poi è chiaro che quel servizio viene svolto in altre aree della città dove ci sono le... Ok, ma perché le multe? Donne. Perché le multe invece? Per impedire che quel servizio venga svolto in quel giardino. Ho capito, perché però quando fai un'ordinanza devi per legge prevedere una sanzione, non puoi fare un'ordinanza che non prevede. D'accordo, però le multe valgono per tutti, per chiunque dia da mangiare, no? Per chiunque dia da mangiare in alcune zone, immagino. In quella zona in particolare, in quella e solo in quella, e vale appunto per i motivi che vi ho detto. Quindi Parenzo, cosa c'è di razzista in questo? Non ho capito. È un problema specifico, ben delimitato. Poi l'accoglienza e l'assistenza senza fissa dimora ai cosiddetti ultimi viene garantita ovunque e comunque. Parenzo, cosa c'è di razzista? No, voglio usare la mia solita sobrietà senza alzare i toni. Trattate, e in questo ti ci vedo anche te Cruciani, anche se non hai responsabilità politiche, ma lo dico a Tosi, questi poveri come fossero dei piccioni, come quando si mette il cartello vietato da mangiare all'uccello. Allora, ma non è che li vuole fare morire di fame? Come? Allora dovevano mettere intanto dei bagni chimici in questo giardino. Perché sì, e poi mettiamo pure il coso, vai. Sì, i bagni chimici per il coso. E poi che facciamo? Al centro di Verona mettiamo i bagni chimici. Che fai? Anche il caffè! Anche il caffè! Anche il caffè! Dobbiamo portare! Se ti fanno la bimbi sotto casa! Anzi, devono venire anche a casa tua a farti la mamma mia, che cosa ridicola che dici! Zanzara! C'è una zanzara tigre! Flavio Tosi, che è anche candidato alle elezioni europee, ha detto che però non andrà al Parlamento di Strasburgo, fosse eletto, ma rimarrà a Verona. Caro Parenzo, non ho capito la tua rabbia prima, la mia rabbia è dovuta al fatto che spesso la politica, semplicemente con motivazioni, come dire, anche povere, ma perché povere? Non ho capito. Decoro della città. Ma certo, ma perché il decoro della città non è un valore da proteggere? Le persone che sporcano sono altre, sono quelli che... Ma sì, ma sei sempre sono il solito benaltrista. Sono gli ultras, sono quelli, i ragazzotti che escono dalla discoteca e fanno la pipì. Non i poveri. I poveri di Verona, dopo che è entrata in vigore questa ordinanza, dovrebbero andare tutti uno a uno con le loro cose. Dove? Loro sotto cesti. Casa? Sotto casa. Omni a me comporto, come diceva l'amico. Omni a me comporto con le loro coperte. E urinare davanti al comune. Ha capito che ha detto Parenzo Tosi, dovrebbero andare i barboni di Verona. La dignità di un bagno. La dignità di un bagno chimico. Vabbè, stai delirando, delirando. Tosi? No. Scusami. Ma allora sono una risposta tecnica al di là di Parenzo, che probabilmente ha voglia di provocare. Ha bevuto qualcosa oggi. Ma mi resta simpatico lo stesso, anche se ha voglia di provocare. Poi. È una via di mezzo fra la provocazione e l'ipocrisia la sua, perché immagino che se lui avesse il giardino di casa, ammesso che abbia un giardino, una persona a farci bisogni all'interno non ce la vorrebbe, ma a prescindere da questo. È sempre così. Un bagno chimico in un giardino che è nel pieno centro storico di Verona e quindi ipervincolato dalla sovrintendenza. Un bagno chimico alla sovrintendenza non ce lo farà mettere mai. Ma poi quelle persone lì non devono dormire al centro di Verona, non si dorme per strada, Parenzo, non si dorme per strada, punto, non si dorme. Infatti, secondo me, Tosi dovrebbe essere più coerente in realtà estendere questa ordinanza a tutto il centro, a tutta la città. Cioè, chi dà da mangiare? Chi dà da mangiare? Ma stiamo parlando di persone, oh! Ho capito, chi dà... ci persone. Sono dei centri preposti, se tu non porti... piccioni! Ci sono dei centri preposti. Spiegare a Parenzo il contesto qual è. No, però perché allora, lei non estende a tutta comune, la città, Tosi? Perché non è... Il comune di Verona ha più di 200 posti letto convenzionati al dormitorio e spende più di 1 milione di euro all'anno solo per gli ultimi, poi spendiamo alcune decine di milioni di euro in generale per l'assistenza sociale. Dopodiché ci sono alcune persone, queste appunto in particolare, che rifiutano il dormitorio, rifiutano quindi un certo tipo di assistenza, preferiscono vivere per strada. Allora, comprendendo che ci sono fasce di disagio che è legate a problemi psichiatrici, a problemi di alcolismo, quindi sì, persone particolari che rifiutano quindi appunto un'assistenza più completa per una serie di problematiche che le hanno portate a... Però Tosi lo sa che... nel contesto civile, ripeto, l'assistenza a queste persone viene comunque garantita. La cosa che non è più sopportabile è che qualche decina, perché appunto si parla di numeri di questo tipo, in un giardino molto piccolo ci vivono e ci facciano i bisogni. Questo era diventato... Vorresti nel giardino di casa tua, Parenzo? Lo vorresti nel giardino di casa tua? No, ma e allora che... una città ma... è il giardino di chi ci abita, hai capito? Ma certo, io lo dico. E allora perché ti piace vedere gente che piscia in un giardino? Che no, caga in un giardino in città? È proprio per questo dico che vanno usate le strutture. Se, la, se questi qua sono persone bisognose di aiuto, vanno aiutate, non vanno lasciate. Ma quello che c'è, ma quello è scontato, ma che nessuno li vuole bruciare vivi in piazza, dai su, smettila, no, di essere, scusami, così ipocrita, scusami, è un scusami, modo per dissuadere le persone che vanno a dargli da mangiare. Stiamo parlando di persone, come ha detto il sindaco, con gravi problemi psichici, ma non è detto, alcuni allora, sì, altri no, molte di queste persone qui vanno aiutate, vabbè, ma questo è scontato, questo è scontato, non è scontato niente, perché tu sostieni questa ordinanza, quindi non è... trattate queste persone come i piccioni di San Marco. Quando c'era il problema dei piccioni a San Marco, a Venezia, Cacciari fece un'ordinanza dicendo non date da mangiare agli uccelli. E beh, allora? E venivano multati. Ecco, quelle sono persone, non... Vabbè, uccelli, ma che c'entra, mamma mia? Sono persone. Però non Tosi, perché allora i giornali stranieri, ho letto l'Independent, parlano della Lega come un partito sedizioso, la multa a chi sfama i barboni, non capisco. L'Independent scrive della Lega solo quando deve scriverne male, quindi non è tanto Independent, ma è piuttosto parziale. È dependent, dependent, esatto, dependent. Esatto. Sento una cosa, ma mi faccio una... ha letto oggi questa cosa della banana? Si è diffusa in maniera virale questa cosa? È una cosa legata a un giocatore del Barcellona, Dani Alves, che hanno tirato la banana per motivi di razzismo e oggi tutto il mondo del calcio si è messo a mangiare le banane. L'ho fatto anche Renzi, l'ho fatto anche Prandelli, l'hanno fatto un sacco di persone. Lo faccio anche lei, si mangia una banana stasera, che dice? In solidarietà? Le banane sono buone, a me piace la frutta, quindi non è un problema. Per cui le banane vanno mangiate, non vanno tirate. Beh, si mangi... tirate no, nel senso che è chiaro che l'insulto personale, perché allo stadio gli insulti fra tifoserie ci sono sempre stati, sempre ci saranno. Gli sfottò pure, anzi sono pure simpatici spesso. Quando invece si trascende nell'insulto personale, perché il razzismo è insultare personalmente di fatto una persona per la sua identità, per il colore della pelle, per la sua origine. Per cui i tifosi del Verona non portino mai le banane, perché le hanno fatto nel passato. I tifosi del Verona... le banane mi sa che le hanno utilizzate. Hanno dato da quest'anno in particolare degli esempi di grande ironia e di grande intelligenza nel saper fare il tifo, perché... presero in giro mirabilmente Mario Balotelli senza mai offenderlo, così come ci sono stati i reciproci sfottò con i tifosi partenopei. Senta, ma se il Verona senza mai trascendere. Se il Verona va in Europa League, lei che fa? In che senso lei che fa? Lei che fa? Che ne so, faccio un fioretto, ma cioè... No, perché l'ultima volta mi è toccato fare il giro del lago in bicicletta. Faccio un'altra cosa. Un'altra cosa. Verona in Europa League, la promessa del sindaco qual è? Cioè Europa League, no, facciamo una mezza maratona, dai. No, faccio la promessa e dopo magari non ci va, dicono che gufo. E allora meglio non fare promesse che magari porto sfiga. Ma no, perché dicono che porta sfiga lei quando va? No, ma uno che fa una scommessa e dopo magari la cosa non va, no, per quello sono andato a vedere, ho visto il derby ritorno, abbiamo vinto, l'ho visto anche col Catania, abbiamo vinto, no, per quello... Senta, ma poi Lerner è venuto il 25 perché dice che voleva portare il cibo ai poveri il 25, si è visto? Beh, che sia venuto in arena a muovere qualche appunto al sottoscritto e alla sua ordinanza, sì, questo l'ha fatto. Ma è andato a dare il cibo ai poveri poi? No, credo che se ne sia scordato, però in compenso in arena l'ha detto quantomeno. Però poi alla fine questa grande mobilitazione... No, poi sarà andato a mangiare lui, avrà avuto fame lui, sarà andato a mangiare lui. Capito, Parenzo? David? Niente, è finito come al solito, chiuso tutto. Senta, lei non si sente un po' a disagio ad avere nella sua stessa lista il signor Boso che dice che voleva rinchiudere gli extracomunitari in un ghiacciaio? Io nella lista rispondo per me e per i candidati espressi. Ma perché avete ricandidato Boso, uno che insomma, io, apertamente razzista? Io, lo ha dichiarato lui stesso? Allora, che sia apertamente razzista razzista, non più lo so. No, l'ha detto lui, sono razzista e mi vanto di esserlo. Allora, la Liga Veneta in quella lista esprime il sottoscritto Lorenzo Fontana. Ho capito, ma la lista è quella del suo partito, non è la mia, cioè non è la sua, non è quella. Scotta, che anche lui è parlamentare uscente, e Elisa Vigolo. Io rispondo per i nomi che io ho proposto come Liga Veneta. Per i nomi proposti da altre parti della Lega all'interno di quella lista io non rispondo. Ho capito, però Boso, che è uno che sta nella sua stessa lista, pochi spazi sotto, poche posizioni sotto, ha detto apertamente di essere razzista. Allora, ormai chi non la pensa come Boso voti Flavio Tosi, ecco. Vabbè, ho capito, però la domanda è lei, non si sente a disagio avere, non si sente a disagio per avere Boso nella sua stessa lista? Io penso a quello che dico io e a come ci comporto e come mi comporto io. Parenzo, ci sei? Sei tornato o no? Ci sono in radio. Sei sono tornato o no? Vabbè, sei in radio, che ti devo dire? Si vede che si era agitato un po' troppo, si vede che adesso si è un po' calmato. No, ti mi sono agitato, io mi accaloro quando sento razzismo. Ma razzismo dove? Trattati come degli animali. Ma poveri trattati come degli animali dove? Quando? Perché? Dove? Insomma, sono delle persone, non sono... Niente, vabbè. Non sono... Cioè, io... Capisco anche questo, il sindaco Tosi che è anche Arezzo, lei, Arezzo, perché non cade. Va lei a fare la cacca in un giardino pubblico nella sua città, vediamo se gli abitanti ne sono contenti. Potrebbe farlo, no? Tanto lei è una persona, vada a fare la cacca nei giardini pubblici a vedere se la gente apprezza. Ma io la faccio a casa mia perché ho la fortuna di avere un bagno e soprattutto una casa. Ma che c'entra? Ma lo Stato, un comune, si deve far carico di queste marginalità. Sì, si deve far carico anche delle persone che cagano per strada, dai, su. Se ne fa carico. Se ne ma fa non carico è che questi qui la... E dà cioè, le misure di accoglienza e di assistenza. Siccome queste persone rifiutano quel tipo di assistenza, si vuole quantomeno impedire che certi comportamenti che degenerano nell'inciviltà e in problemi igienico-sanitari si vadano a concentrare, vabbè, in un giardino. Ma non lo vuole, capire Parenzo, per lui va bene, uno dovrebbe mettere addirittura, che cos'è che ha detto all'inizio, la cosa ridicola dei cosi, i bagni chimici, ma direi di bagni chimici, quelle cose orrende in un giardino al centro di Verona. Quando ci sono i grandi eventi a Verona, i grandi eventi, come in altre città, non i grandi barboni, non i grandi eventi, non i grandi barboni. Adesso c'era a Roma un evento importantissimo che era la beatificazione. Sono venute milioni di persone qui, d'accordo? Allora, sono venute, ogni angolo di strada, vabbè, c'erano dei bagni chimici. Ma che c'entra? Giusto? Quello è un evento eccezionale. Giusto, no, che c'erano bagni chimici. Appunto, allora, siccome lì c'è una situazione evidentemente eccezionale, in cui quanti saranno poi questi barboni che danno problemi, a cui una bisogna fare da mangiare, come allo zoo, come si dice con gli animali dello zoo, al leone non date da mangiare. Ai cani non date da mangiare, perché altrimenti lordano la città. Beh, sì, quelle certo sono persone. No, sì, quelle sono bisogna persone. Bisogna multare chi stimola, allora, questi... quelle persone a rimanere lì. Se tu non gli dai da mangiare, quelle persone si sposteranno. Molto semplice. È obbligo di un comune dargli un tetto. Oh, Aridai, stanno facendo qualcosa, non so cosa, ma stanno facendo qualcosa. E ma allora, non capito perché. Ma perché non te li porti a casa tua, così pisciano sul tuo salone da 200 metri quadrati? Portali a casa tua, al centro di Roma, 200 metri quadrati, ma vai, portali a casa tua, così cagano sul terrazzo, portali a casa tua, non mi devo candidare, dico delle cose normali, portali a casa tua, così sul terrazzo cagano, dai, abbi il coraggio di fare una cosa del genere. Quindi, no, scusami, il ragionamento è interessante, perché lo voglio chiedere al sindaco, cioè voi pensate, siccome se uno non dà da mangiare a queste persone non defecano, questo è il ragionamento, no? Perché come agli animali, se tu gli dai no, non sono spinti a rimanere lì, non sono spinti a rimanere lì. Fai parlare tu un attimo. Restano lì perché vengono assistiti lì, se si sposta in una zona idonea all'assistenza non succedono più quei fenomeni, tutto lì. Senta, ma se lei prende meno voti della gang le dispiace? Il PD viene attestato intorno al 35%, la Lega intorno al 5%, e quindi è immaginabile che i candidati del PD forse possano prendere qualche preferenza in più. Vabbè, quello che c'entra, però non è, di solito i candidati possono anche prendere tanti più voti rispetto a quelli dei partiti più grossi, Insomma, normalmente in base al numero dei voti, vabbè, che ha una forza politica ci sono anche le preferenze. Vabbè. Grazie, a presto, grazie. Grazie a voi. Zanzare, il treno di montagna, in collina, in campagna e a Nando da Perugia, buonasera. Mi arrivo, ecco, dunque. Certo, mi trovo d'accordo con questi ultimi interventi con Parenzo. Dimostra sempre di essere una persona umana. Sì, invece sono disumano. No, lei è un fascistone. Ma veramente non fascistone, mi risulta volgarone, fascistone, sì. Volgarone, sì, sicuro al 100%. Penso anche culattone, perché perché no? No, mettiamo uno frogio sicuro, mettiamoci altrimenti... pure quella cosa, la roba lì, anche culattone, perché no? Sì. Ah, sì, ma sì. Mettiamo sempre al centro l'interesse, il guadagno, sì, il dovere, mai la persona, non la persona, non il diritto, sì, no? Ma assolutamente, figuriamoci. Ma scherziamo, no? Dico, ma assolutamente. Di culo, proprio sicuro, quando gli provano a dire, ma lei attende, non ha paura. E poi senta, Nando, innanzitutto cerchi di collegarsi da un luogo più degno, perché non si sente niente. E come si sente niente? Non si sente niente. Questa è la scusa, perché vuol tagliare, perché evidentemente... Ma quale tagliare, Nando? Ma che come sempre, a lei ci vogliono interlocutori, sì, tipo Lotito, no? Che l'ha mandato a fare in culo, sì. Lotito, Sgarbi, sì, con questi qui fa l'agnellino, sì, con quelli che può fare il prepotentone, no? Sì. Prenda per esempio dal suo collega Parenzo, no? Sì. Che viene tante volte massacrato, invece è la persona che ritengo che ha sale in zucca, ragiona con equità, con giustizia, sì, e non è affatto volgare, a differenza sua. Ne finito? Esempio. Ha no, finito? Quando finisco lo decide lei, quando io finisco, mica lo decido io, è lei che lo decide. Allora, ho sentito i suoi interventi sul Papa, che non deve telefonare a Papa, ma come se permette? La gente che non deve manifestare, la polizia deve essere un esempio, non deve picchiare, nemmeno dopo essere picchiata, non deve picchiare, anche se viene picchiata, prima di reagire, sì, ci deve pensare due volte. Ci deve pensare due volte. Fatto? Perché quelle finito? Persone lì sono pagate per fare quel lavoro, ha capito? Finito? No, ho finito, te lo decide lei quando io finisco. E che ne so, continui, vada. Continuo, quando ce l'avrei tante da dire, no? Difendiamo la polizia, anche nei casi in cui, no, ci sono stati dei casi eclatanti, ragazzi. Sì. E non ha proferito parola. No, dice una purtroppo è sempre troppo, le manganellate in certe manifestazioni sono sempre troppo poche. Sono poche le manganellate. Sono troppo poche, purtroppo sì. No, non è mica il fascistone, no, non è fascistone. Purtroppo la polizia non usa la violenza come dovrebbe, purtroppo, la violenza che è sempre monopolio dello Stato, voglio ricordare. Purtroppo ogni tanto ci vanno un po' leggerini, secondo me dovrebbero picchiare un po' più duro. Così uno poi ci pensa tre volte prima di tirare un razzo ad altezza, come dire, ad altezza uomo, un razzo ad altezza uomo nei confronti della massa, della polizia, della gente, poi ci pensano tre volte, capito? Ma i giovani cortei. Parlo i giovani perché la gran parte sono giovani, quelli che manifestano. Secondo lei sono attrezzati per offendere o per difendersi a livello delle forze dell'ordine? Io dico di no. No, infatti le bombe carta, i razzi, no, i razzi li porto io alle manifestazioni. Culo, le bombe culo, no, le bombe carta, le bombe culo. Che, vabbè, che Nando, bombe carta, Nando. Tutte stronzate. Sì, lei, tutte stronzate, lei, certo. Tutte stronzate. Invece le cose vere le sa lei, Nando. Le cose vere le sa lei. No. Lei deve mettere al centro l'uomo, la persona. La persona, sì. Diritto. Ma lei che fa? Il Papa? Ma chi è il Papa? Il Vescovo di Perugia? Chi è? Ma che è? Il Vescovo di Perugia, lei? Chi è? Intellettualmente vale zero. Ma chi è il Vescovo di Perugia, lei? Che il Vescovo di Perugia deve mettere al centro l'uomo, la dignità, la persona. Ma che è il Vescovo di Perugia? Pari da Parenzo. Ma stia zitto. E poi sa cosa mi stupisce, Cruciani? Che Roberto Napolitano, che persona così seria, non le dica mai niente. Io non lo so. E questo non è corretto, cara signora, Vauro, certo che l'attacco di Vauro nei confronti di Napolitano non ha fa parte, diciamo, no, di un certo modo di pensare nei confronti del Presidente della Repubblica. 70 anni fa Napolitano fu fascista. Mauro parla della modifica della Costituzione, che non bisogna toccarla perché è un simulacro intoccabile, perché qualsiasi cosa venga modificata è un disastro per la democrazia, eccetera, e attacca Napolitano che la vuole invece cambiare. Sentiamo. 70 anni fa Napolitano non era partigiano, bisogna sfatare un po'. Anzi, era caporedattore di una rivista di critica cinematografica fascista, ma lasciamo perdere. E anche Grillo il giorno dopo ripete la stessa cosa. Napolitano diceva: fascismo porta libertà. Mio padre, quando sono arrivati i tedeschi, ha chiuso l'azienda per non lavorare per loro, è scappato sulle montagne. E Napolitano che cazzo faceva? Era all'università che parlava che il fascismo ridarà libertà e democrazia al nostro paese. E che cosa facevano questa gente qua? Poi Vauro dice la mafia sta riscrivendo la Costituzione. Gli investimenti in questo paese non arrivano perché c'è una corruzione capillare. In questo paese non arrivano gli investimenti perché c'è la mafia. In questo paese la mafia addirittura riscrive la Costituzione. Antonio da Caserta. Salve. Vai Antonio. Non ti sento tanto bene. Quello che volevo dire, anche ascoltando le parole di Parento, anche quelle col sindaco Tosi, ma quanto caspita ipocrita questo Parento. In che senso, scusi, però parli meglio, tolga il viva voce, faccia qualcosa, ci faccia Bravo sentire lei. Bene, su, dai. Bravo non lei. C'è, non ho né viva voce né niente, e allora, vada. Un ritorno altissimo, non si capisce niente. Tanto qui siamo alle solite, vai Antonio. In pratica volevo, quello che voglio cercare di spiegare. No, vabbè, non si sente niente. Antonio, qual è il punto che vuole dire? Che Parenzo è ipocrita per quale motivo? Vada al sodo, su, forza. Volevo fare un preambolo dicendo. Ma non c'è nessun preambolo da fare, il preambolo lo fanno i professori. Antonio, vada al sodo, dai. No, io non sono un professore. Non ecco, appunto, allora non faccia nessun preambolo. Non sento niente, io non sento. Vabbè, vada al diavolo. Niente. Andrea dalla provincia di Macerata, dai. Pronto? Sì, vai. Sì, buonasera. Volevo parlare con il signor David. Sì, è qui il signor David. Eccomi. Sì, guarda, volevo dirle solo una cosa, visto che io faccio parte del fan club di Riccardo da Roma. Beh, numero uno. Bravo. Sì. Sì, va bene. Siamo oltre 500. Noi siamo dei fan che facciamo dei trucchi, mettiamo e mi piace, ma i veri fancazzisti sono quelli che lui difende, che vanno sulle città, che vanno a spaccare tutto, sono quelli che non fanno un cazzo. Niente, stasera va così, non si sentono. Va a lavorare alle 5 del mattino in una fabbrica di suole per 1200 euro al mese. Allora, Andrea dalla provincia. Andrea, stia zitto un attimo. Andrea dalla provincia di Macerata fa parte del fan club Riccardo, giusto? Oltre 500 adesioni. E dice: siccome questi che hanno aderito a questo club sono considerati da Parenzo dei fancazzisti, giusto, Parenzo? Sì, simpaticamente ovviamente. No, tu hai detto che sono dei fancazzisti. Questo signore invece non è un fancazzista manco per niente. Ma detto con simpatia, perché ovviamente. Beh, detto con simpatia, non lo dicevi proprio con simpatia. Ma Andrea, certo, dove lavora lei? L'hai detto anche a Riccardo. Lui ti ha detto faccio 40 appuntamenti e una sera ha anche detto sto mettendo a letto i miei due figli. Ha anche due figli, quindi mi sembra una persona abbastanza responsabile. Perché mi sembra pure un ragazzo giovane e quindi non penso che sia uno Riccardo di è anche simpatico dice, così come capite? Come ok, quindi lui dice guarda Riccardo è un fancazzista, questi sono fancazzisti. Io stamattina mi sono svegliato alle 4:30 e avevo fatto dalle 5 all'1 una fabbrica di suole. Quindi mi devi dire a me che sono un fancazzista, mentre lui difende, ci sono quelli che vanno a protestare, vogliono il lavoro, cercano il lavoro, io lavoro 5 mesi all'anno e vado avanti 800 euro con la disoccupazione, e lui deve dire che quelli lì sono quelli che lavorano. Ah, loro vanno in piazza a lavorare, fanno animazione in piazza, tirano sanpietrini, spaccano tutto. Ma perché invece di andare lì in piazza a sfondare i negozi non stampi 100 curriculum e li porti per tutta Roma, cerchi lavoro, no? Che sfondi il negozio dove potresti lavorare. Sono come zanzare. Oh, è con noi DJ Aniceto. Ciao, come stai? Bene, bene, buonasera. Sono molto felice di essere in onda con voi. Allora, la droga, attenzione, viva la vita, viva la pizza. Oddio, costa basso la droga, Anice. Ci fai una testa così, ti leggo dappertutto. Ti leggo dappertutto. Non la finirò mai. Rispondi a chiunque dicendo abbasso la droga. Ma tu lo sai che ogni tu lo sai che ogni tanto Parenzo si fa due canne? Beh, adesso è tanto. E allora non è mio amico a questo punto. No, beh, come non è tuo? Allora, la cosa è molto chiara. Noi qui alla Zanzara siamo sostenitori della legalizzazione delle droghe leggere. Delle droghe leggere. Che siamo due pazzi? Cioè, adesso siamo tuoi nemici? No, cioè, la pensiamo. No, assolutamente, ognuno è libero di fare quello che vuole, insomma. Io dalla mia figura, insomma, che ho come DJ, sai, queste cose qua. Mi sono dato, diciamo, un senso al mio lavoro, diciamo, penso positivo, e quindi lancio sempre questi slogan, faccio sempre una guerra a tutte le droghe, perché diciamoci la verità. Ok, per te una canna è uguale all'eroina, cioè anche tu sei uno di quelli che non distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, Anice? Ma guarda, io la penso in una maniera un po' diversa. Tu la pensi come Giovanardi, dai. No, assolutamente. Io sono contro le droghe a fondo ludico, diciamo. Ma che hai fatto? Sei affannato? Che hai fatto? Hai fatto le scale? No, sto camminando per casa mentre sto parlando con voi. Le droghe a sfondo ludico, che vuol dire? Cioè, sono tutte a sfondo ludico. Nel senso, a me non mi piace quando uno si droga per divertirsi. E uno che si droga a fare, per forza. Si dovrebbe divertire senza bisogno di droga. Vabbè, questo però, questo è scontato. Però esiste anche, vuol dire, nel mondo chi si vuole divertire con le droghe. Benissimo. La legalizzazione delle droghe leggere serve a togliere un po' di soldi alla criminalità, o no? Ma no. Guarda, io sono sempre contro tutto ciò che non è, diciamo, legale, no? E quindi anche questo, appunto. Cioè per te rendere legale lo Stato che guadagna sulla droga è sbagliato. Ma guarda, ma in Uruguay lo fanno, in Uruguay lo stanno facendo, in Colorado. È un discorso un po' strano, cioè quasi per me marziano, perché lo Stato non dovrebbe guadagnare sulle droghe, non dovrebbe guadagnare sulla prostituzione, dovrebbe guadagnare su altro, sul lavoro delle persone. Manco la prostituzione legale, manco la prostituzione legale. Ma tu sei un DJ piuttosto bizzarro, eh? Cioè, la maggior parte dei DJ sono associati ad altre cose, tu invece contro la... Meno male, voglio dire, meno male. Sei contro la legalizzazione della droga leggera, contro la legalizzazione della prostituzione, magari sei pure clericale, che ne so, sei pure a favore sì, del... Sì, credo molto in Dio, vabbè, quello... nella religione, ho un mio credo molto particolare. L'altro giorno ha scritto, Parenzo, abbasso la droga, vive i due papi, che poi che c'entrano tutte e due insieme, no, la droga? C'è una relazione tra le cose. Qual è la relazione abbasso la droga e vive i due papi, scusa Aniceto? Cioè, la relazione è che bisogna credere nei sani valori, bisogna andare nei sani valori, non bisogna credere nelle droghe, ecco perché io certe volte la domenica, oltre ai due papi, dico abbasso la droga, viva la parmigiana di melanzane, viva gli gnocchi, viva... Mi rendo conto di essere un po' particolare, ma questa mia particolarità mi piace, perché ho una serie di sostenitori. Cioè, il tuo sballo qual è? Il tuo vero sballo qual è? Che ne so, una preghiera? Qual è il tuo sballo? Il mio vero sballo è far ballare le persone, farle divertire, eiaculo col cervello. Eiaculo col cervello, beh, questa qua è interessante. Sì, DJ Aniceto, eiaculo col cervello. Rosa. Il mio vero sballo è far ballare le persone, farle divertire, eiaculo col cervello. Novità su Antonio Razzi. Sigla. Onorevole Ghezzi, allora... Come Ghezzi? Traffico veicolare a Roma. Se qui tutti prendono i cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei, io. Come Ghezzi? Lass uns in den Sommer fliegen. Ich weiß auch schon wohin, zu Anton. l'ultima di Razzi, caro Parenzo, è sugli uomini sessuali. Ah, sì. Gli uomini sessuali, credo a... A Class. A Class, sì. Gli uomini sessuali, ho avuto tre che lavoravano con me quando io ero il capo operaio e lavoravano con me. Perfetto, sono grandissimi operai, non ho mai avuto problemi con queste persone. Non ho mai avuto problemi con gli uomini sessuali. Persino in Africa volevano Berlusconi. Persino i paesi africani, sono stato anche nei paesi africani, dici perché non ci porta il presidente Berlusconi da noi? Dico, ma lo conoscete? Ma come no? Diciamo, paesi latini, paesi asiatici, in tutto il mondo, io dico in tutto il mondo, anche nella Corea del Nord, perché no? Beh, gli uomini sessuali non è male, gli uomini sessuali. Ma abbiamo anche la moglie che è intervenuta da noi venerdì scorso, Maria Jesus Fernandez, la moglie di Antonio Razzi. Beh, che ha detto dove andava senza pensione, rispolverando la polemica da cui è nato il personaggio Razzi, cioè dire me faccio i cazzi miei, eccetera eccetera. Però la situazione nostra era molto tragica, era molto tragica nel senso che a lui l'hanno preso in giro perché diceva ah la pensione, io devo normale, tutti quanti vogliono arrivare alla pensione, a lui le mancavano 4 anni, dove andava? No, e rimanevamo tutte e due senza lavoro perché io avevo perso il lavoro in Svizzera, lui l'aveva perso pure e non avevamo all'età sua del 62 anni, dove trovava dopo un lavoro? In Svizzera, in Italia, dove lo trovava un lavoro? Ho strappato il taccuino con tutte le donne, con tutte le conquiste di Antonio. C'erano pure le foto, la moglie di Razzi. Ma è vero che lei ha buttato quel taccuino dove lui segnava tutte le donne? Sì, anche le fotografie che aveva. Che ci fa? Se adesso sono io, mica ci possono stare le altre cose. Sì, le ho rotte e basta. Ho detto, questo ormai non fa più parte della tua vita, no? Adesso ci sto io e faccio io parte della tua vita. E si vede che è andato bene perché, grazie a Dio, ringraziando il Signore, sono 40 anni che adesso facciamo. È con noi DJ Aniceto. Yes. Eccoci qui. Allora, io voglio capire una cosa. Che ne pensa di Gianni Ceto di Berlusconi, innanzitutto? Ma guarda, è una persona che ho sempre ammirato. Cioè, è un tuo idolo? Un sacco di critiche. È un tuo idolo? Ma assolutamente no, un idolo no, però è una persona che si è fatto da solo, ha creato un impero. È perseguitato? È stato eletto dal pubblico. Dal pubblico, è stato eletto cioè, dal gente. Popolo. Sì, dal ecco, quindi voglio dire, insomma, no, comunque dire. Tante frecce al suo favore. Scusa, Aniceto, però... Va tutto benissimo, perché per carità, va benissimo, Ball, Gianfranco da Torino, quell'altro, Riccardo da Roma, si battezzismo. Che c'entra questo, scusa? DJ Aniceto, meraviglioso, benissimo. Cioè, qual è il problema, scusa? Che problemi hai? Mondo? No, è bellissimo che tutti... noi tutti siamo tutti uguali e tutti noi commentiamo. Dopodiché, ma voglio capire questo. Primo, Aniceto è il nome di battaglia, immagino, no? Il pseudonimo. No, è il mio cognome. Ah, no, pensavo un nome di battaglia, DJ Bubu. Ma Parenzo è un po' snob, capito? Cioè non vuole fare parlare le persone che secondo lui non hanno dignità di parlare, capito? Tutt'altro, solo che è così infervorato sulla questione di uno spinello, di una cosa. Dopodiché mi difende Berlusconi, ma va benissimo tutto, per carità. Ma diglielo chiaramente che ogni tanto ti fai qualche spinello a casa. No, ho detto, ma anche sono... davanti ai tuoi figli, dillo, gli spinelli davanti ai miei figli. No, questo guarda. Come questo... no? Sicuramente, ma non ci sarebbe niente di male. Questo è una menzogna. No, questo ti guarda. Ma qual è il problema? Scusa, non ho capito. Perché questa è una menzogna assoluta. Ma perché tu sei così che te le fai solamente nella stanzetta alle 11 di sera quando i figli sono a letto, no? Mi può essere capitato negli ultimi mesi, purtroppo. Non sono mesi che non pratico. Ah, sono mesi che non ti fai la canetta. Altrimenti. Purtroppo sono mesi. Ma secondo me non è vero, tra l'altro. Comunque. Non avrei motivo di dire diversamente. Comunque, solitamente te ne fai un paio a settimana, te ne fai solitamente. No, quando è capitato, me ne sono fatto una settimana, ma neanche, ma proprio ma una al mese. È da condannare, Aniceto? Ma però che bello essere fieri di farsi la droga, cioè è proprio una cosa molto bella, voglio dire, da parte di Parenzo che si. No, ma non è fiero, semplicemente, drogato, ecco. Semplicemente se le faceva, punto, o se le fa ancora. No, faceva, a domanda. Ma non è bello dirlo questa cosa. Hai fatto però. Una canna, risposta sì, cioè, va bene, ma questa sì. Non è bella dirla questa cosa, perché le canne, diciamo, fanno male, perché sono comunque al poco medico, vanno benissimo, ma se uno non ha malattie e ti fai una canna, funziona come una medicina. Se te la prendi e non ti serve, ma comunque ti fa male. Però, Aniceto, però, ricordiamolo, scusa, sempre questo. Ho capito, però non è che se uno si fa una canna a settimana succede qualcosa. Ma dai, su. Ma che c'entra? Può darsi pure che il tuo fisico risponde in una certa maniera e risponde male. Però non dimentichiamo che le canne, molti ragazzi associano all'alcol, a droghe sintetiche. Quindi è questa la pericolosità. Veramente, perché uno ingurgita una bomba. Vabbè, ma quello vale per tutte tutte le cose, vale per l'alcol, vale per altre cose, vale per le medicine, qualsiasi eccesso fa male. La canna non è una cosa diversa da una bottiglia di whisky, diciamo la verità, da un bicchiere di whisky, dai. Ma io non mi fido delle erbe. Cioè, che cosa vuoi dire qui, per esempio, a un tecnico di questa radio che ha più volte qui confessato di fumarsi le canne? È qui davanti a me, dietro il vetro, che ha detto: io ogni tanto mi fumo le canne, una al giorno, giusto? Che cosa gli vuoi dire? Che è sbagliato? Lui sta bene così, sta benissimo. Che dici? Ma perché bisogna farsi per forza la droga? Ma non è per forza, a quello gli piace farsi la canna. Le canne. Ma se quello sta a casa sua e gli piace farsi la canna, tu dici che si devasta il cervello in questo modo, Aniceto? Sì, io ho conosciuto parecchi ragazzi, parecchie persone. Ti devasti il cervello, amico mio. Lui dice di no, e si sono sfondati il cervello, cioè non ragiona. Sono veramente criptici quando parlano, cioè veramente hanno fuso il cervello ed è veramente una cosa negativa, ragazzi, non vi drogate. Ma scusa un attimo, Aniceto, ma Berlusconi, passando a parlare di un'altra cosa, deve essere rieducato secondo te? Cioè, ha bisogno di fare queste 4 ore a settimana oppure è uno scandalo? Ma guarda, assolutamente, cioè se una persona deve essere condannata, secondo me doveva essere condannato agli arresti domiciliari. Perché cioè la rieducazione è una buffonata. Di fargli fare queste cose è una buffonata, perché questo tipo, cioè i servizi sociali vengono fatti per rieducare le persone, ma una persona anziana come si può rieducare? Cioè ormai la sua testa funziona così. Ma tu chi voterai? Forza Italia? No, io non voto nessuno. Nessuno, qualcuno voterai, Anice, dai. No, non voto nessuno. Non voto nessuno io, perché ragiono con la mia testa e la politica non la capisco, allora, non la comprendo. Ho capito, allora passiamo a un appello al tecnico qui della radio, che ha detto che ogni giorno si fa una canna, giusto? Una volta al giorno, quante volte te ne fai? Adesso mi sta parlando, quante? 3 a settimana, 4 a settimana? Mamma mia, che bella. 5 a settimana, 5 canne a settimana, eccolo qua. Che cosa gli vuoi dire, caro DJ Aniceto? Che gli vuoi dire? Cosa gli posso dire? Che lui può fare della sua vita quello che vuole. Vabbè, questo però meno male. È dovere da che delle persone come me che hanno che fanno. Ma che gli vuoi dire? Smettila, che deve fare? Quello sta bene così, sta in grazia di Dio. Si deve fare di pasta, deve andare con gli amici a mangiarsi una pizza, deve fare. Ma quello lo fa lo stesso, mangia la pasta lo stesso, beve la birra e poi si fa pure una canna, perché alla fine in fondo non è che 5 canne a settimana ti distruggono il cervello, o sì? Ma assolutamente sì, perché a lungo andare te lo distruggono. Cioè, vabbè, Aniceto. Io non sono un dottore, quindi non ti do spiegare esattamente. Ho capito, ma stai nella commissione quella là, nel comitato sulla droga, là, come si chiama? La consulta antidroga, ma io faccio prevenzione. Non mi permetto certo di giudicare la medicina o di fare trattati medici. Vabbè, comunque quindi il consiglio è smetterla di farsi le canne e farsi di pasta e di altre cose, ho capito. Sì, di andare a ballare, di fare sesso, di fare quello tutto quello che si vuole, ma tranne la droga. Vabbè, ciao Aniceto, grazie, a presto. Ciao. Tiziano, provincia di Brescia. Tiziano? Pronto? Mi senti? Sì. Vai. Ciao. Come stavo mangiando? Niente, volevo spezzare una lancia a favore di Sgarbi. Che mangi? Pollo, curry, olive e capperi. Non puoi. Pollo al curry, stupendo. Pollo al curry. Sì, buono. Niente, prima il discorso di Sgarbi diceva che era stato attaccato da quell'ascoltatore di Roma. Mi rammarico con te che circa 2 settimane fa Sgarbi ha espresso un concetto molto importante, molto alto, che tu non hai ricordato. Cioè quale? Quello che in realtà scopare, com'è la storia? praticamente una donna, non per, per dire che diciamo l'hai amata, non per forza di riportarla a letto, nel momento in cui lei si concede o comunque cede, automaticamente è comunque una conquista. Allora? E tu questo non l'hai ricordato, quindi vuol dire che l'ascoltatore di Roma che dava del figaiolo a Sgarbi, diceva se ne faceva 3 o 4 al giorno, non è detto che Sgarbi non ha mai costruito per forza portarla a letto, ma diceva che poteva anche semplicemente conquistarla per dire di averla, diciamo. Ho capito, vabbè, ma non era il caso di tornare su questa cosa. Elton da Brescia, velocemente, Elton? Ciao Cruciani, ciao Paretto. Dimmi. Evviva DJ Crocetto! Aniceto si chiama, che Crocetto? Aniceto, sbagliato. Vai Elton, dimmi. Forse fa ballare i morti questo qua. Vai. Ascolta, ma Parezzo, vai a pisciare nel tuo balcone. Sì. E dopo, quando va a 25-26 gradi, esci fuori e senti che odore viene. Bravo. Hai capito, intelligente? Bravo, genio, bravo. Sono un genio. Quando passi nelle piazze di Brescia, Savona, Torino, Milano è uno schifo, i barboni fuori dai coglioni perché hanno rotto già le palle. Vabbè, adesso fuori dai coglioni, calma, il fatto che si debba stare attenti anche al decoro di una città, oltre che a dar da mangiare ai barboni, secondo me è giusto. Siamo come lei, siamo come lei. È stato querelato da Antonio Razzi Manuel Anelli, candidato sindaco nel paese dove abita mia madre, caro Parenzo, Montesilvano. Siamo come lei, siamo come lei. Candidato sindaco 5 Stelle, Manuel Anelli, buonasera. Buonasera Crociani, buonasera Parenzo. Come andiamo? Parenzo, lo sapevi che mia madre abita a Montesilvano? Sì, no, me l'avevi. Ma che sapevi? Ma non sapevi un cazzo. Me l'avevi. Ah, figure, ma non sapevi nulla. Allora, Razzi che ha querelato Anelli, perché Anelli ha detto, qual è la frase esatta, Anelli? Razzi, caro amico Antonio, però ritira la querela, perché non si querelano le persone per queste cose, non si ingolfano i tribunali per delle frasi. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Beh, anche tu in questo caso, Antonio, però. Allora, Anelli, qual è la frase incriminata? Avere un finanziere candidato sindaco di Forza Italia è come vedere Razzi ministro della cultura. Non mi sembra di aver fatto chissà quale offesa. Vabbè, hai detto che è un ignorante, dai. Ma assolutamente. Qual è l'offesa? Che un ispettore della Guardia di Finanza si candidi con Forza Italia o essere associato al ministro della cultura? Quella è l'offesa. No, l'offesa è che tu gli hai dato, come dire, sì, come dire, il paradosso, dici Razzi tutto potrebbe essere tranne che il ministro della cultura. Questo è il problema, perché in realtà non è più un paradosso, perché davvero c'è un candidato di Forza Italia che è un ispettore. Beh, quello a Montesilvano, però noi ovviamente sorvoliamo su questa cosa qui. Certo. Ma perché è perché Razzi è l'opposto della cultura, secondo te? No, nella maniera più assoluta. Cioè, Razzi comunque esprime quello che l'Abruzzo, l'abbiamo visto. Cioè, che esprime? No, sto scherzando, sto dicendo semplicemente. Dai, su, Anelli. L'ultimo abruzzese ad aver rivestito incarico ministeriale è Del Turco come ministro della finanza. E chissà perché non potrebbe rivestirlo Razzi come ministro della cultura, dico io, no? Ormai sono passati 10 anni. No, questo d'accordo, però quello si è incazzato perché tu lo hai dipinto come un povero ignorantone che viene, quello si è fatto un mazzo così, da operaio è diventato senatore, certo, con Berlusconi ha cambiato da Di Pietro, eccetera, adesso è diventato sì, ma io non ho mai detto che lui ha fatto il parallelo con i suoi 17 anni, ma non è quello il discorso, cioè non ho mai parlato di cosa avesse fatto a 17 anni Razzi, ma al massimo di cosa ha fatto in Parlamento. La sfera politica la conosciamo tutti quanti, ma si figuri Cruciani se era quello il discorso. Poi non so se ha letto la sua risposta, cioè in maniera più assoluta. Cioè, perché che cosa ti ha detto? Che questo giovanotto andasse a lavorare in fabbrica. Vabbè. Ma nella maniera più assoluta, io rappresento quello che è la categoria degli studenti, mi sto per laureare tra pochi mesi, quindi la categoria degli studenti. Però ho capito, però tu gli hai dato dell'ignorante. Lui ha detto vabbè, questo comincia a lavorare perché per adesso non ha fatto niente, mi sono fatto un mazzo così, mi viene da dare la ragione quasi a Razzi, cioè addirittura. No. Dai, su. Ma io che posso dirle, Cruciani, il discorso è questo, cioè non l'ho messo sul piano della sua storia il suo trascorso umano. Hai fatto una battuta. Io dico, caro Antonio, non querelare, perché non c'è bisogno di querelare. Incontratevi, non lo vorresti incontrare Razzi tu? Ma guarda, ti dirò di più, Cruciani. Questo pomeriggio era a Pescara al club di Forza Italia. Volentieri l'avrei invitato. C'erano dei nostri che stavano là fuori. Gli ho detto: perché no? Fatelo venire, magari facciamo un collegamento insieme. Va bene, nei prossimi giorni faremo la grande pace. Manuel Ranelli fa pace con Antonio Razzi. Sì, ma poi la querela per diffamazione. Allora a questo punto ha ragione Grillo, no? No, appunto, no, ma su questo gli do ragione, non deve querelare. Però anche tu, cioè, vuol dire, ormai è diventato un monumento, signor Razzi, una specie di monumento nazionale. Ma infatti, secondo me è lui che si sta facendo pubblicità attaccando me in questo momento. Anzi, io dovrei anche ringraziarlo se per questo. Vabbè, perché dai, nei prossimi giorni facciamo questo incontro. Ciao Manuel, Alessandro, provincia di Vicenza. Sì, buonasera. Vai. Parlo con... Pronto, mi sente, Cruciani? Vai, dimmi. Ascolta, niente, appunto, chiamavo per l'intervento di prima di Tosi in merito al discorso di barboni presenti nel parco. Oh, comunque pare che la Chieng si sia fatta una foto finta col Papa, Parenzo, la tua amica Chieng, pare che sia fatta una foto taroccata col Papa. Certo. Veramente? È una cosa incredibile. Sì, come no, a voglia. Se è vero, ha fatto una sciocchezza. Allora, Alessandro. Ascolta, niente, appunto, volevo intervenire in merito all'intervento appunto di Tosi, il sindaco di Verona di Verona. Sì, lo trovo una cosa poco decorosa per la città, orde alla fine il fatto che ci siano sti barboni che bivaccano su sto parco e praticamente non hanno niente di dove appunto fare le loro cose, quindi il fatto anche di montare dei bagni chimici, cioè la trovo veramente una cosa molto molto banale. Sì, ma l'idea di Parenzo è montare i bagni chimici al centro di Verona, cioè la gente piscia per strada e tu monti i bagni chimici, è la cosa orrenda che sono. Beh, i bagni, diciamo, chimici. Diciamo che la priorità è andare a mangiare alla gente che ha fame prima. Sì, vabbè. La priorità. Ciao amico mio, ci sentiamo domani. Certo, lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Barisoni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Calma, tranquillità, serenità. Radio 24. La passione si sente.